Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Il melologo Anni senza fine, siti, 6 racconti di Clifford Simak, un progetto della Casa d'Argilla. Lisa Ferlazzo Natoli, Alice Palazzi, Maddalena Parise con la collaborazione di Alessandro Ferroni, Tania Garriba, Fortunato Leccese, Diego Sepe, Roberta Zanardo. Adattamento e cura di Silvana Natoli. Voci registrate e attori Simone Castano, Lorenzo Frediani, Tania Garriba, Silvio Impegnoso, Fortunato Leccese, Anna Mallamaci, Alice Palazzi, Diego Sepe, Roberta Zanardo. Realizzazione per strumenti e tastiera del canone enigmatico a quattro voci 1074 di Johann Sebastian Bach, Gianluca Ruggeri. Esecuzione dal vivo Ivano Guagnelli. Allestimento Camilla Carè e Maddalena Parise. Regia del suono Alessandro Ferroni. Queste sono le storie che i cani si raccontano quando le fiamme crepitano alte e il vento fischia da nord. Allora ogni famiglia si raccoglie intorno al focolare e i cuccioli siedono muti, intenti ad ascoltare. E quando una storia è finita, fanno molte domande. Che cos'è l'uomo? Chiedono che cos'è una città e dicono che cos'è una guerra. Non c'è una risposta precisa a questo genere di domande. Ci sono solo supposizioni e molti narratori spiegano che è solo una leggenda e che non esistono cose come un uomo o una città. Si tratta di leggende antichissime, tramandate da secoli di padre in figlio. Alcuni dicono che sono di origine non canina, altri dicono invece che sono stati i cani a inventare questa creatura immaginaria, l'uomo, come una specie di divinità razziale alla quale ricorrere per trovarvi conforto. La prima storia è La città agonizza. E non è proprio una storia, ma piuttosto un'introduzione alle altre. Ed è la più difficile da capire per i cani. Forse perché loro non vi appaiono? O forse perché vi domina il concetto di città? Si pensa che la città fosse una piccola parte di territorio e molti studiosi la ritengono una struttura impossibile. Infatti, nessuna creatura dotata di un sistema nervoso sufficientemente complesso da sviluppare una civiltà potrebbe sopravvivere entro così angusti confini. E il risultato sarebbe una nevrosi di massa che annienterebbe gli stessi esseri che hanno costruito la città. In questo racconto il linguaggio è particolarmente sconcertante. La terminologia usata in riferimento all'uomo è stata costruita in una maniera incredibile. Sappiamo che il plurale di questa mitica razza è uomini, mentre la designazione vera e propria della razza è umana. Le femmine sono chiamate donne e i cuccioli bambini. E oltre al concetto di città, un altro concetto che potrebbe risultare offensivo per i cani è l'idea della guerra, cui si associa l'idea di uccidere. Uccidere era un processo grazie al quale una creatura vivente poneva fine alla vita di un'altra creatura vivente. La guerra, sembrerebbe, era un processo di uccisione di massa eseguito su una scala che per noi è semplicemente inconcepibile. Evidentemente non può, dunque, essere il prodotto della nostra razza. Deve provenire da un'era di profonda barbarie. Alcuni esperti credono che l'uomo sia esistito davvero e che questo primo racconto narri in realtà l'inizio del crollo della civiltà umana. John Webster era adagiato su una sedia a sdraio. Si godeva ai caldi raggi del sole e osservava la sarchiatrice al lavoro. Automatica, ogni dannata cosa è automatica adesso. La macchina si fermò di botto, tirò fuori un braccino d'acciaio e frugò nell'erba. Poi, trionfante, mostrò un sasso e lo lanciò lontano. Soddisfatta, riprese il suo lavoro avvicinandosi a Webster. Dalla finestra giunse la voce di sua moglie. John! E Marta? Fammi il piacere di spostarti quando la sarchiatrice ti passa vicino. Non cercare di essere più cocciuto di lei, dopo tutto è solo una macchina. L'altra volta sei rimasto seduto e l'hai costretta a girarti intorno. Che gusto ci provi? Mi hai sentita, John? Va bene, va bene. Brontolando, John spostò la sedia e guardò torvo la macchina. Uno di questi giorni ti faccio saltare a martellate un paio di rotelle. La macchina ridacchiò malignamente prima di allontanarsi. Dalla strada si udì lo scoppiettio di un motore che arrancava tra le erbacce. Ah, questo è Bill, l'unico che tenga ancora un'automobile. John arrivò al cancello in tempo per vedere la vecchia auto arrugginita che girava l'angolo, sobbalzando e sbuffando sulla strada da tempo abbandonata. Un getto di vapore si levava dal radiatore surriscaldato, mentre dallo scappamento usciva una nuvola di fumo azzurro. Il vecchio Bill era seduto al volante e strizzava gli occhi nello sforzo di vedere le buche della strada, dove crescevano ormai erbacce di ogni genere. Ehi, Bill! Ma che diavolo ci bruci nel motore? Un po' di tutto! Cherosene, petrolio per trattori, alcol per massaggi. La benzina non la producono neanche più. A che serve, dicono, quando c'è l'energia atomica? Ti va una partita? Devo finire il giro per la verdura. Ma non te la comprerà nessuno. Ormai la gente vuole solo prodotti idroponici, Bill. Non darei un solo centesimo per tutto quello che fanno crescere nelle loro maledette cisterne. Quella roba per me non ha un sapore giusto. Lo dico sempre a Marta, il cibo deve crescere nella terra per avere un po' di carattere. Sono venuto a salutarti, John. A salutarmi? Me ne vado. Stiamo andando via tutti dalle città. Io non vorrei, ma mia moglie è la tua. Io e lei stiamo bene qua, Bill. Ogni tanto le compro una macchina e lei si accontenta. Dove andrai? Ci sono tante belle tenute di campagna. Webster indicò la strada fra le case deserte. Guarda, Bill. Guarda laggiù. C'è stato un tempo in cui tutte quelle villette erano il più bel posto del mondo. C'erano buoni vicini, le donne si scambiavano visite e ricette di cucina, gli uomini tagliavano l'erba nel loro giardinetto e dopo un po' abbandonavano le falciatrici e si mettevano a chiacchierare fra loro. Gente simpatica, Bill. E ora guarda che desolazione. Da una macchia di cespugli schizzò fuori una strana sagoma scintillante che tossicchiava e borbottava, irta di lame saettanti e di un lungo braccio simile a una gru. Ma che diavolo è quella roba? È quella maledetta sarchiatrice. L'ho sempre saputo che un giorno avrebbe perso qualche rotella e sarebbe diventata pazza furiosa. Ma ti rivedrò, Bill. Verrai a farti un'ultima partita, vero? Ho paura di no, John. Sentirò la tua mancanza. Anch'io. Non avrò più nessun amico quando te ne sarai andato. Addio, John. Addio. Webster rimase in piedi a guardare l'amico che se ne andava via e sentì il gelido artiglio della solitudine stringergli il cuore. Ma che cos'è successo alle città? Gli anni erano trascorsi troppo veloci. Anni che avevano portato l'aeroplano, l'elicottero di famiglia e avevano lasciato le automobili arrugginire in qualche rimessa dimenticata, le strade di ogni città a sbriciolarsi nell'abbandono, che avevano visto sparire l'agricoltura e sorgere le colture idroponiche. Terra per tutti a prezzi irrisori, dove poter andare a vivere lasciandosi definitivamente alle spalle la vecchia casa di città. Il mattino dopo, Webster decise che era venuto il tempo di tornare al municipio. E va bene. Dopo aver lavorato nell'interesse della città per 15 anni, è logico che sia io a dire la verità. Quando entrò nella sala, la seduta del consiglio comunale era cominciata da un pezzo. Maxwell, il capo della polizia, era in piedi accanto al sindaco Carter, che stava parlando. Non ti sembra di agire precipitosamente, Maxwell, sulla questione delle case? No, è niente affatto. Nessuna di quelle case è occupata dai proprietari originari e nel frattempo stanno diventando i rifugi della criminalità. Dobbiamo sbarazzarcene e il fuoco è il metodo più rapido ed economico. Ci faremmo odiare da tutti, bruciando case alle quali la gente è ancora affezionata. Ma se fosse vero, perché non hanno mai pagato le tasse? Perché se ne sono andati tutti in campagna correndo come lepri? Ah, ma chiediamolo a Webster e lui può dirti che successo è stato cercare di risvegliare nella gente l'amore per le loro vecchie case. L'unica cosa che ho da dire avrebbe dovuto essere detta già da molto tempo. La città è un anacronismo, signori. Sì, in origine è nata per darsi protezione reciproca, è stata circondata da mura, poi le mura sono finalmente scomparse, la città è ugualmente sopravvissuta per i vantaggi che offriva al commercio e al mercato, perché la gente era costretta a vivere vicino ai luoghi di lavoro che si trovavano nelle città. Ma oggi questo non corrisponde più alla realtà. La città ha fallito, perché non c'è più alcun motivo perché essa debba continuare a esistere. Ha esaurito la sua funzione e se non fosse stata abbandonata, signori, questa città sarebbe stata distrutta. Ci sarebbe stata una guerra atomica. Le città sono state abbandonate, le industrie si sono disperse per il paese e così non ci sono più stati bersagli. La città è morta. Lasciatela riposare. È la cosa più bella che sia mai capitata in tutta la storia umana. John Webster voltò le spalle e lasciò la sala. Fantasmi. Si disse, guardando le strade e le case abbandonate. Io vedo solo fantasmi, fantasmi di bambini che giocano, fantasmi di tricicli capovolti, di trenini rovesciati, fantasmi di caminetti accesi, di comignoli fumosi nelle notti d'inverno. Io resterò qui, non partirò con gli altri, questa è la mia terra. Toglierò le erbacce, le boscaglie di sterpi, pianterò alberi nuovi. Un grande olmo, come c'era una volta, che spingeva i rami contro il frontone della casa. E scaverò un torrente e lo popolerò di trote per andarci a pescare con i miei figli. Sì, dovrò costruire canne da pesca. Quando tutti andarono via dalla città, John Webster e la moglie rimasero soli, con tanta terra e tanto spazio tutto per loro, e tanti soldi da spendere perché suo nonno era stato tra i pionieri dell'energia atomica. Un po' alla volta Webster ingrandì la casa e allargò la sua terra, e alla fine la tenuta sembrava uno strano castello immerso nei boschi. La recintò e mise un bel cartello con sopra scritto Casa Webster. E visse sempre lì, e così i suoi discendenti, perché fu lui il capostipite di una lunga, lunga generazione di Webster. Il secondo racconto, Jenkins il robot, tocca un tasto più familiare a noi cani. Per la prima volta vediamo comparire una figura che ci è nota, il robot, un essere che per migliaia di anni è stato il compagno favorito dei nostri cuccioli. Noi abbiamo ancora i nostri robot, deliziosi meccanismi che ci aiutano e ci forniscono di mani. Tanto che ogni robot è parte di ogni cane. Secondo alcuni, i robot sono un'invenzione dell'uomo. Secondo altri, invece, e sono la maggioranza, il robot può essere stato concepito solo da una razza alle cui necessità tanto bene si adatta. Oggi i cani non costruiscono più i robot, ma perché essi ormai la si costruiscono da soli. Molti silenziosi robot e due esseri umani erano intenti a guardare una figura scolpita nella pietra e ricoperta di muschio che adornava la tomba di famiglia. Jerome Webster teneva per mano il figlio Thomas e pensava a suo padre Nelson, quarto dei Webster che avevano abitato la tenuta e lì erano morti. Jerome sentiva un nodo stringergli la gola ricordando il vecchio, un uomo saggio e sereno, che aveva l'orgoglio della terra, la soddisfazione del tempo che trascorre senza assilli e la libertà che viene dalla sicurezza. Lentamente i robot sistemavano il feretro nella cripta, ne sigillavano l'apertura e vi attaccavano la targa con la scritta Nelson F. Webster 2034-2117. Per il funerale si erano tutti riuniti lì, i Webster con le loro donne e i loro figli. Jerome era con suo figlio Thomas, che salutava il nonno prima di partire per Marte. Il fuoco ardeva nel caminetto e alla scrivania Jerome Webster, ormai solo, rileggeva il titolo del suo ultimo libro. Fisiologia marziana. Appunti sul cervello di Jerome Webster, dottore in medicina. Voluminoso, autorevole, era l'opera di tutta una vita, praticamente l'unica nel campo medico. Qualcuno bussò alla porta. Avanti. Un robot entrò silenziosamente. Il vostro whisky, signore. Grazie, Jenkins. Il pastore se n'è andato, signore. Mi ha incaricato di pregarvi a nome suo di andare qualche volta in chiesa. Che cosa? Gli ho detto, signore, che voi non uscite mai. È vero, Jenkins. Nessuno di noi va mai da qualche parte. Jenkins uscì e Webster rimase seduto presso il fuoco, con il libro e il liquore vicini, avvertendo il benessere e il senso di protezione che la sua casa gli dava. Amava la sua stanza, la sua casa, la terra, dove c'era qualcosa che faceva di ogni albero, di ogni roccia, di ogni zolla, un albero e una roccia e una zolla dei Webster. Di Webster. Dopo che le città erano scomparse, gli uomini si erano ribellati all'istinto gregario e ora molti, come i Webster, vivevano nelle loro tenute, in sicurezza e autosufficienza. Una vita tranquilla, un'esistenza quasi feudale, basata sulle antiche case familiari e su ettari e ettari di terreno libero, con l'energia atomica e i robot a disposizione. Non va mai da nessuna parte. Da nessuna parte. Questo aveva detto Jenkins al pastore, ed era vero. Per quale motivo doveva andare da qualche parte? Semplicemente girando una manopola, si poteva parlare faccia a faccia con chiunque, e si poteva andare senza muoversi ovunque si volesse. Jerome formò un numero sull'apparecchio a disco. La stanza si dissolse. Lui restava seduto e aveva di fronte un colle coperto da una vegetazione dorata. Sullo sfondo, lontane pinete e una montagna porporina. Una voce sommessa e sibilante gli parlò, una voce non del tutto umana, che Webster conosceva bene. Hey, mio caro Drain. Webster salutò il suo amico marziano, una figura piccola, villosa, dallo sguardo mite. Mio figlio sta partendo per Marte, verrà a trovarti. Medico anche lui? Ahimè no, studia ingegneria. Forse la tua famiglia ha dato abbastanza alla scienza medica. Marte ha un grande debito nei tuoi confronti. Sai che la mia razza non è portata alla medicina. Ma è portata alla filosofia in un modo così nuovo e originale che noi non conosciamo. Insomma, voi avete fatto della filosofia uno strumento pratico, applicabile alla realtà della vita, delle cose e della scienza. Jerome, sono prossimo a scoprire qualcosa di straordinario, qualcosa di prodigioso che può farci progredire tutti, di millenni. Webster trattenne il fiato. Poi qualcuno bussò alla porta. Le colline scomparvero e la stanza si ricompose con qualche tremolio. Juvain era venuto a trascorrere un'ora con il suo amico e poi se n'era andato silenziosamente, senza farsi notare. Jenkins aprì la porta. Il pranzo è servito, signore. Grazie, Jenkins. Il vostro posto, signore, ora è a capotavola. Ah, sì. Grazie per avermelo ricordato, Jenkins. Webster stava ritto sull'ampia terrazza dell'astroporto e seguiva con lo sguardo la piccola forma grigiastra che andava svanendo. Rimase là ancora a lungo, gli occhi sperduti nel cielo azzurro e le mani strette alla balaustra. Arrivederci, figlio mio. Fu scosso da un brivido e gli parve strano perché il sole era alto e caldo. Rabbrividì ancora. Tutta quest'aria com'è? Com'è possibile che io mi senta soffocare? Si allontanò dalla balaustra e all'improvviso fu colpito da una specie di terrore che lo lasciò mentalmente sconvolto. Jenkins, l'elicottero, fai venire l'elicottero. Io, signore, devo tornare a casa, non posso restare qui, non posso, se ci resto impazzisco. Capisco, signore, anche vostro padre ne soffriva. Mio padre? Sì, signore, era per questo che non andava mai in nessun posto. Nostalgia di casa, pura, semplice, vergognosa e umiliante. È una cosa che provano i bambini quando lasciano la loro casa per la prima volta e escono a affrontare il mondo. C'è una parola scientifica per definire questa cosa. Agorafobia, il terrore morboso di trovarsi al centro di uno spazio aperto. Una parola che deriva dal greco, la cui radice è paura, letteralmente paura della piazza. Il primo leggero vento di primavera entrò dalla finestra. Webster ne respirò la brezza. Il visifono ronzò al suo fianco e lui premette il bottone. Sono Claiborne, ricordate? La missione medica marziana. Claiborne, certo che mi ricordo. Ho letto il vostro libro, dottore. Un vero contributo, specie per quanto riguarda il cervello marziano. Grazie. Dottore, Ho appunto un paziente per un'operazione al cervello e solo voi siete in grado di farla. Webster si sentì mancare il respiro. Le mani furono scosse da un tremito. Potete portarlo qui? No, non può essere spostato, lo conoscete? È Juane, il filosofo. Juane? Sì, ha chiesto lui di voi. La Commissione Mondiale vi metterà subito a disposizione un'astronave. No, è impossibile, io non posso affrontare lo spazio. Tutti possono affrontare lo spazio. No, voi non capite. No, infatti, non capisco. Non capisco come un uomo possa rifiutarsi di salvare la vita a un amico. E poi la questione è ancora più importante. Juane forse le ha accennato della sua scoperta. Tenetevi pronto, dottore. Manderemo l'astronave. Claiborne interruppe la comunicazione. Webster sedeva rigido sulla poltrona, fissando la parete. Vedeva il mite volto grinzoso di Juane, che dava forma logica ai sogni, che usava la filosofia per aiutare gli uomini a migliorare. Nascose il viso tra le mani e combatté la sofferenza che lo divorava. Io devo andare. Devo andare su Marta, devo partire. Webster cominciò a fare i bagagli e si augurò che l'astronave arrivasse al più presto. Presto, l'astronave deve arrivare presto. Scendeva il crepuscolo di una primavera precoce, che odorava di germogli di salici bagnati. Ma perché non arriva ancora? Dovrebbe essere già qui. Webster sapeva che se avesse dovuto aspettare ancora, non avrebbe più avuto il coraggio di andare. Udì bussare alla porta e Jenkins entrò. C'è stata una novità straordinaria, signore. Ah, sì? Sono arrivati due uomini con un'astronave e hanno detto che volevate andare su Marte. Ah, sono arrivati, ma perché non mi hai chiamato? Ho pensato di non disturbarvi, signore. Era così assurdo. Alla fine sono riuscito a convincerli che non era possibile che volevate andare su Marte e loro sono ripartiti. Webster sentì una morsa di gelida paura nel cuore. Cadde a sedere sulla poltrona, sentendo che le pareti della stanza si serravano intorno a lui, come una trappola che non l'avrebbe mai lasciato andare via. Terzo racconto, il cane Nathaniel è tra i nostri preferiti, perché per la prima volta vi compaiono i cani e il cane Nathaniel in particolare sembra avere qualche fondamento storico. È un nome infatti che ricorre in altre storie tramandateci dal passato della nostra razza. In questo racconto si parla anche di mutazione e c'è chi sostiene che i cani sarebbero frutto di un intervento umano e questo potrebbe essere sconvolgente se lo si prendesse alla lettera. Ma forse è l'unico modo di una mentalità primitiva per spiegare le cose che non capisce, ricorrendo a un intervento divino. Grant stava riposando accanto alla piccola sorgente sulla collina, quando lo scoiattolo gli sfrecciò accanto e dietro allo scoiattolo, in un ciclone di foglie, correva il cagnolino nero. Quando vide Grant, il cane si fermò di colpo e lo guardò, scodinzolando. Grant sorrise. Ciao, piccolo! Ciao! Sbalordito, Grant si guardò intorno, sospettando uno scherzo, un ventriloquo probabilmente. Il cane gli si avvicinò. Io mi chiamo Nathaniel, abito sulla collina con i Webster. Bruce Webster. Adesso capisco. Sono felice di conoscerti, Nathaniel. E tu chi sei? Io sono Grant, sono un numeratore. Un numero cosa? Un numeratore è uno che conta la gente. Sto facendo un censimento. Vuoi passare la notte da noi? Così domattina potremo andare a caccia insieme. Non vorrei disturbare, sono abituato ad accamparmi. Farà caso? Il nonno? Nonno Thomas! È molto, molto, molto vecchio! Sta tutto il giorno seduto a pensare a una cosa accaduta tanto, tanto, tanto tempo fa! So di che si tratta, Nathaniel. È una storia antica. E Grant si chinò ad accarezzare il cane dietro l'orecchio. Nathaniel fece una smorfia di felicità e si avviò per il sentiero. Grant lo seguì. Sul prato, Thomas Webster sedeva nella poltrona a rotelle e guardava lontano verso le colline. 86 anni. Una cosa importante l'ho fatta. Ho mandato gli uomini verso le stelle. Ma l'altra cosa, la più importante, no. Non sono riuscito a cancellare quella macchia dalla mia famiglia. Duane, morto per una debolezza di mio padre. Il suo whisky, signore? Da quanto tempo servi whisky in questa casa, Jenkins? Ho servito whisky a suo padre ogni giorno. E così al padre di suo padre... Guarda, Jenkins, c'è mio figlio, Allen. Lassù ora sarà a metà strada da Alfa Centauri. Se potessi vivere abbastanza. Da lontano... Verso il fiume giunse lo starnazzare di un branco di anatre selvatiche. Ma che succede laggiù? Sembra, signore, che Nathaniel stia portando qualcuno a casa. I cani erano arrivati in gruppo ad augurare la buonanotte, poi se n'erano andati. Bruce Webster offrì a Grant un bicchiere di brandy. Sono fantastici. Avevo letto qualcosa sugli esperimenti che state facendo con i cani. E lei che cos'è che conta? Oh, beh, è un incarico del Comitato Mondiale, ma non riguarda la gente come voi. Vogliono informazioni sugli altri, sapete? I vagabondi delle montagne. A nord li chiamano i selvaggi delle betulle. Una popolazione nascosta, quasi dimenticata. E poi, negli ultimi tempi, sono apparse qua e là delle strane manifestazioni, in maniera del tutto frammentaria, ma si tratta comunque di cose senza precedenti. Forse stiamo entrando in un periodo che potremmo definire come una specie di nuovo rinascimento. Parla dei mutanti? Sì, i mutanti. Io lavoro sui mutanti. Ho dedicato la mia vita al tema delle mutazioni. Sa, c'è stata un'occasione una volta per raggiungere... un ordine di idee completamente nuovo che avrebbe spazzato via la confusione di 4.000 anni di pensiero umano. E un uomo ha sciupato quell'occasione. Mio nonno, Jerome Webster. Sì, ma perché i cani? I cani non hanno mai avuto una possibilità. L'uomo fino a questo punto è andato avanti da solo sul sentiero del progresso. Pensi a quanto sarebbe stata più breve la strada se invece di una sola razza, ce ne fossero state due. Perché vede, due razze differenti, quella degli uomini e quella dei cani, avrebbero due modi di vedere il mondo da confrontare tra loro. Dove la mente di una non dovesse arrivare, arriverebbe quella dell'altra. E vostro padre intanto manda un'astronave più lontano dalla Terra di quanto nessun uomo sia mai stato. Sì, sì, ma a proposito dei mutanti, voglio raccontarvi una cosa. Grant, che mi ha detto mio padre e che può esservi utile. Vi ascolto. Ha lavorato per anni al volo interstellare, ma alla fine qualcosa non funzionava. Sapeva che c'era solo una correzione da fare da qualche parte, ma non riusciva a trovarla. Beh, un giorno era seduto sul prato e studiava il disegno del progetto. Gli si avvicinò un uomo, un vagabondo delle colline. Guardò da sopra la sua spalla e allungò il dito sul foglio. «Ecco», disse... «Qui che non funziona!» E mio padre, sbalordito, si girò a guardarlo, ma il mutante s'era già allontanato. «Capite, Grant? È così che è nato il motore interstellare. Grant si allungò sul letto e tirò un sospiro. C'era qualcosa in quella casa che metteva i brividi. Un robot, Jenkins, che ha servito la famiglia per 4 generazioni. Un vecchio, Thomas Webster, preoccupato per un'astronave che scivola attraverso le tenebre dello spazio. Un altro uomo, Bruce Webster, che sogna una nuova razza, la razza dei cani. E soprattutto l'ombra di Jerome Webster, l'uomo che ha abbandonato l'amico marziano Juvain e ne ha tradito la fiducia. Dalla sacca estrasse un sottile blocco di fogli e ne lesse il titolo con reverenza. Definizione incompiuta di una nuova filosofia. Di una nuova filosofia. Di Juvain. Di Juvain. Ci sarebbe voluta una mente che non conoscesse sentieri obbligati dalla logica umana per raccogliere la torcia e farla proseguire oltre il vicolo cieco in cui l'aveva lasciata la mano del filosofo marziano. Grant sentì un grattare furtivo alla porta, poi un guaito sottile. Quando l'aprì, Nathaniel scivolò dentro. E se Oscar sa che sono qui, si arrabbia molto, molto, molto. E chi è Oscar? È il robot e che si prende cura di noi. Ci insegna tante, tante, tante, tante, tante parole. Noi sappiamo parlare e sappiamo anche pensare. Pensare? Ci sono tante cose che i cani sanno e gli uomini no. Noi possiamo sentire cose e vedere cose che gli umani non possono né sentire né vedere. E Bruce dice che siamo, sai, noi siamo... Medianici. Medianici, sì. Che ne dici di passare la notte con me, Nathaniel? Ti puoi sistemare ai piedi del letto? Accidenti! Davvero posso? Non sporcherò il letto, sai? Oscar mi ha fatto il bagno stasera. Però credo che gli siano sfuggite una pulce o due. Il giorno dopo, Grant era tornato al censimento dei vagabondi delle montagne. Trovò lungo un sentiero la signora Baxter, seduta in cima a una staccionata. Salve, straniero. Salta su. Arriposati un poco. Sulla staccionata di legno, nei campi d'autunno circondati dalle colline, Grant sentiva il calore scaldargli la schiena e respirava il profumo dell'erba. Una buona vita. Un buon raccolto. Una terra fertile. Selvaggina da cacciare. Una buona vita. La signora Baxter si tolse la pipa di bocca e la usò per indicare il campo. C'è ancora tanto lavoro da fare. Le macchine si guastano. E giù, non si vede da queste parti da un'eternità. È un genio per le macchine, Joe. Ha un mezzo matto che vive su nei boschi. Arriva, ti ripara quello che c'è da riparare e se ne va. Dirà sì e no due parole. Sono anni che fa così. E poi sembra non invecchiare mai, è sempre uguale. Il nonno raccontava di come Joe pasticciava con le formiche. Formiche? Sicuro. Ha costruito una casa, una serra, sopra un formicaio e l'ha riscaldata quando è venuto l'inverno. Così, diceva mio nonno. Uno strano individuo che appare, ripara gli oggetti e prima ancora di potergli dire grazie se ne va. Un uomo che ha lo stesso aspetto di 100 anni prima. Che costruisce una serra su un formicaio e la riscalda. Strana gente, questi vagabondi delle colline. Gente che rifiuta il progresso, che rifiuta le società umane. Dall'avvallamento soleggiato venne il rintocco di una campana. È pronto da mangiare. Arriva! Spazzatino di coniglio, il più buono in cui tu abbia ficcato i denti. E vieni. Il mattino dopo, Grant girò a lungo per i sentieri più nascosti e poi trovò un formicaio ricoperto di plastica, una plastica rotta e abbandonata. Qualcosa si muoveva. Con la testa pulsante per l'emozione, Grant si inginocchiò accanto al formicaio. Le formiche tiravano carrettini e c'erano comignoli che sporgevano dal formicaio. Carretti vuoti che andavano e carretti pieni che tornavano, carichi di semi e di corpi smembrati di insetti. Carrettini! Quel formicaio si trovava in una valle selvaggia, ricoperta di vegetazione, disseminata di pietre e macigni, lontana dai sentieri battuti. Un luogo indisturbato dove, per milioni di anni, le formiche avevano seguito un destino che non aveva avuto altro scopo se non la sopravvivenza. Adesso, qualcuno aveva cambiato il percorso di quel destino, aveva dato alle formiche il segreto della ruota e della lavorazione dei metalli. Un'altra razza sulla strada della grandezza. Dove arriveranno? Rialzandosi con il respiro corto e affannoso, Grant sentì un fruscio alle sue spalle. Si girò e vide un uomo dinoccolato, con spalle spioventi e mani enormi, ma con dita sensibili, lunghe e bianche. Sei giù? È tuo questo formicaio? E delle formiche? Perché hai fatto questo? Perché no? Ti sei mai chiesto perché la formica è progredita e poi si è fermata di colpo? Perché ha creato un'organizzazione sociale quasi perfetta e poi si è bloccata? La pressione della fame, credo. L'ibernazione. L'ibernazione, vedi, cancella la memoria da una stagione all'altra. A ogni primavera devono ricominciare da capo. Le formiche non hanno mai potuto beneficiare degli errori del passato. Non hanno una riserva di conoscenze. E così tu le hai sfamate e riscaldate? Sì, in modo che non cadessero in letargo. In modo che non dovessero ricominciare ogni volta da capo. E i carri? Ne ho costruiti un paio e li ho lasciati lì. Ci sono voluti 10 anni, ma alla fine hanno capito a cosa servivano. E adesso cos'altro gli insegnerai? Niente, non mi divertono più. Tu fai questo per divertimento. Joe, tu devi fare qualcosa per noi. Noi? Per la società, per la razza umana. Perché? Vuoi denaro? Le colline, il fiume, l'orizzonte, ho questo. Non ho bisogno di denaro. La fama, allora. Vuoi la gratitudine del genere umano? Quella non dura. E poi non so che farmene. Ascolta, Joe. Tu puoi fare molto, puoi aiutarci. Per la conservazione e il progresso della razza. Perché? La conservazione della razza è un mito. Una sordida creazione nata dal marciume della vostra struttura sociale. La razza finisce ogni giorno. Quando un uomo muore, la razza muore. A te non importa di nulla. È quello che ho detto. Grant aprì freneticamente lo zaino. Ne tirò fuori il fascicolo e lo diede a Joe. Definizione incompiuta di una nuova filosofia di Zhu Wei. Interessante. Perché non è andato avanti? È morto. Ecco. Si è sbagliato in un punto. Proprio qui. A questo punto è apparso l'errore e si è bloccato. Tu puoi finire. Puoi correggerlo. Joe piegò accuratamente il fascicolo e se lo infilò in tasca. Si avvicinò al formicaio, alzò lentamente il piede e lo riabbassò con forza, rovesciando i carretti, schiacciando le formiche, seppellendo i comignoli fumanti. Grant urlò e si lanciò contro il mutante, boccheggiando per la rabbia e la disperazione. Un pugno grosso, enorme, lo colpì alla testa con ferocia e cadde a terra. Qualcosa di umido e caldo stava raspandogli il volto. Grant aprì gli occhi. Nathaniel, come mi hai trovato? Ho sentito che stavi male e che avevi bisogno di aiuto. Grazie Nathaniel. Ora devo andare. Devo ritrovare Joe, recuperare il fascicolo di Juvain che quell'uomo mi ha rubato. Posso venire con te? No, tu devi restare qui. Ascolta, Nathaniel, voi cani avete un lavoro che vi aspetta. Forse gli uomini non saranno più come sono oggi. Forse cambieranno. E se lo faranno, voi dovrete andare avanti. Dovrete prendere il loro sogno e farlo andare avanti. Noi cani lo faremo. Se faremo così. Non dovete dimenticare. Io so come fare. Noi cani lo chiama i cuccioli? I cuccioli ai loro cuccioli? È così che si fa. Grant si chinò a grattare Nathaniel dietro l'orecchio e il cane, dimenando la coda, rimase a guardare l'uomo che risaliva la collina. Il quarto racconto si intitola La fuga su Giove ed è il più sconcertante di tutti. È diverso dagli altri e sembra completamente mitico. Ma se è un mito, cosa significa? Alcuni studiosi ritengono che sia un'interpolazione che nulla a che fare con l'opera. Altri, invece, consigliano l'ascolto di tutte le storie per poter intendere questa. Comunque, vi compare un cane. Towser, che pare sprovvisto della naturale dignità della nostra razza. Eppure, benché possa non essere gradito ai più schizzinosi, si rivela un'ottima guida per l'umano di questa storia. È Towser e non l'umano il primo a comprendere e accettare la situazione per come si presenta. Towser, per quanto afflitto dalle pulci, è un personaggio del quale nessun cane si dovrebbe vergognare. Quattro uomini, due alla volta, si erano tuffati nell'ululante maelstrom che era Giove e non erano tornati. Erano andati avanti a lunghi balzi, il ventre a terra, le zampe poderose. I quattro uomini non erano usciti sotto forma umana. Prima erano stati convertiti in rimbalzanti. Solo così si poteva tentare di affrontare Giove. Ora, il quinto uomo era in piedi davanti alla scrivania di Fowler, comandante della cupola per l'esplorazione di Giove. Fowler lo guardò con improvvisa fitta al cuore. Era giovane, troppo giovane. Harold, tu sai che non sei costretto a farlo, non sei costretto ad andare. Quattro uomini sono partiti e non sono tornati. Lo so. Quando devo partire? Noi vogliamo che torni. È l'unica cosa importante, che tu torni e dimostri che l'uomo può vivere sotto forma gioviana. Me ne rendo perfettamente conto. Sono pronto a sottopormi alla conversione. D'accordo. La signorina Stanley manovrerà il convertitore. Non hai niente da temere. Harold sorrise alla donna, che lo guardava con una strana espressione di paura, o forse di pietà. Da queste prove, Fowler lo sapeva, dipendeva il destino degli uomini su Giove. Solo se convertiti in creature gioviane, meglio noti come rimbalzanti, potevano sperare di resistere alla spaventosa pressione del pianeta, al cui confronto la pressione sul fondo degli oceani terrestri era paragonabile al vuoto assoluto, e di resistere alle piogge alcaline, che sbriciolavano il metallo come argilla, sciogliendolo in pozze di sali ammoniacali. Per quanto tempo avete intenzione di continuare? Voi state seduto qui al sicuro e li mandate fuori a morire. Io li converto in esseri alieni, capaci di affrontare il pianeta, ma poi non tornano. Signorina Stanley, è questo che dobbiamo capire. Perché non tornano? E se anche Harold fallisce? Manderò un altro. Harold non tornò. Fowler cercò sulla scrivania e prese l'elenco del personale. Era una cosa che odiava, ma doveva farlo. Si udì uno scalpiccio nel corridoio e Fowler sorrise. Towser tornava dalla cucina, dove aveva fatto visita al suo amico cuoco. Aveva un osso in bocca, lo stringeva con i pochi denti malandati e agitava la coda, salutando. Fowler lo guardò, guardò ancora l'elenco del personale. Poi decise che non poteva mandarne altri a morire. Premette il pulsante dell'intercom. Signorina Stanley, volevo avvertirvi di preparare il convertitore per altri due. Uno dei due sarà un cane. Un cane? Sì, Towser. Il vostro cane? Dopo che è stato con voi per tutti questi lunghi anni... Appunto. Soffrirebbe troppo se non lo portassi con me. dov'è? Dov'è l'inferno di ammoniaca e di vapori asfissianti? Il tumulto dell'uragano, i vortici di nubi e di fulmini? Fowler non si era aspettato questo, che la pioggia si trasformasse in quella lenta nebbia purpurea. Nebbia che si muove come un'ombra leggera su una prateria rossa, e serpentine di fulmini che si trasformano in guizzi di pura bellezza. Non si era aspettato di sentire il proprio corpo così forte e flessibile, di sentire i profumi portati dal vento che lo penetravano. Il vento che secondo la visione terrestre era un uragano tempestoso carico di vapori benefici. E che ora lo accarezzava con dolcezza. Improvvisamente Fowler sentì Towser, sentì l'amicizia di quella creatura pelosa che ora rimbalzava felice accanto a lui e gli parlava nella mente. Ciao amico, mi sento così bene, come quando ero cucciolo. Towser, tu mi stai parlando? L'ho sempre fatto, è che tu non potevi sentirmi. Davanti a loro una vallata bianca, pervasa da una strana bellezza cristallina che scintillava nell'ombra delle nuvole. E di nuovo quella leggerezza del corpo, mai provata, quell'estasi di libertà. Towser, ci sta accadendo qualcosa. Sì. Sono i nostri cervelli li stiamo usando per intero, fino all'angolo più dimenticato. Come sono lenti e nebulosi i cervelli delle creature terrestri, come fossimo gli idioti dell'universo. Si voltarono a guardare la cupola di conversione. Io non voglio tornare, mi farebbero ridiventare cane. E a me uomo, neanche io vorrei. Non puoi andare, amico, mi sentirò solo. Fowler rimase in silenzio, mentre gli cresceva dentro una ripugnanza nuova al pensiero di rientrare nell'inadeguatezza che erano il corpo e la mente umani. Devo farlo, Towser. Devono sapere, devono avere una possibilità anche loro. Verrei con te, ma ero già vecchio e malato. Non so se ce la farei. Rimani qui. Tornerò. Gli sembrava che Giove cantasse. La creatura che era stata Fowler si teneva ritta sulle zampe massicce e guardava la cupola, lontana. Non so se capiranno. Le cose più semplici, forse sì, che non si debba più mangiare, né dormire, né angustiarsi per nulla. Ma come spiegare le altre cose? Emozioni che l'uomo non ha mai conosciuto, capacità che non ha mai sognato di possedere, un mondo fatto di bellezza e un'esultanza, una gioia di vivere, profonda. Fowler guardò la cupola, vicinissima ora. Là c'erano uomini incapaci di vedere la bellezza di Giove. Uomini chiusi in una solitudine terribile, che parlavano usando una lingua e non sapevano toccare altre menti, esclusi dal contatto con altri mondi viventi. Fowler si girò. Addio, Towser. Un grido di avvertimento si levò nel suo cervello. Sei ancora in tempo. Ancora in tempo. Non sei ancora entrato, puoi ancora cambiare idea, puoi voltarti e correre. Fowler avanzò deciso, sentì il pavimento metallico e la porta che si chiudeva dietro di lui. Raccolse un ultimo frammento di pensiero da Towser. Ciao, amico. La camera di conversione era lì, davanti. Da lì erano usciti un uomo e un cane. E adesso l'uomo ritorna. Il quinto racconto è il dilemma di Tyler Webster e ci convince che la razza umana non può essere esistita davvero, ma perché una razza non può aver raggiunto un livello tanto alto per così miserevoli scopi, non può aver avuto il dono della conoscenza senza sapere poi cosa farne. Una razza non può essere così incapace di comprendere altri pensieri e altre creature. Da 1 milione di anni l'uomo, ci raccontano, era uscito dalle caverne e ci erano voluti poi 1 milione di anni perché si liberasse del vizio di uccidere. E è questa la vera misura della sua barbarie. La conferenza stampa era alla fine. Tyler Webster, presidente del Comitato Mondiale con sede a Ginevra, aveva spiegato tutto ai giornalisti. I disordini già sedati su Venere, gli esperimenti biologici nei gelidi laboratori di Plutone, le spedizioni su Alfa Centauri. E infine, oggi, ricorre il 125esimo anniversario dell'ultimo omicidio commesso nel Sistema Solare. Webster si abbandonò sulla poltrona e sorrise ai giornalisti, mascherando il timore per la domanda che sarebbe venuta. Ora desiderava solo tornare nella quiete della sua casa. Una voce chiese: «E come sta l'erede, signor presidente?» «Gli ho comprato un giocattolo all'antica. Lo appoggiate all'occhio, lo girate e vedete immagini bellissime. Pezzi di vetro colorato che cambiano posto continuamente. Si chiama...» «Caleidoscopio, lo sappiamo, signor presidente. Un'ultima domanda. Ci risulta che un uomo convertito su Giove è ritornato sulla Terra. L'informazione è vera?» «È vera.» «Desiderate commentare la notizia?» «No. Mi dispiace, signori.» Signor Presidente, aspetta. I giornalisti uscirono. Webster li seguì con lo sguardo. «No, non posso dire la verità. Giove, il paradiso, il cielo a richiesta. Questo significa la fine dell'umanità sulla Terra. La fine della stessa razza umana. E la fine dei Webster.» Ripensò con orgoglio alla lunga storia della sua famiglia. Trionfi ed errori. Jerome, che aveva perso la filosofia di Gawain. Thomas, che aveva dato all'umanità il volo interstellare. E il figlio di Thomas, Allen, che aveva tentato le stelle ma aveva fallito. E Bruce, che per primo aveva concepito le civiltà gemelle dell'uomo e del cane. E adesso lui, Tyler Webster, presidente del Comitato Mondiale. «E ora? Che farò ora?» Fowler, allungato su una sdraio nel giardino, guardava il piccolo terrier che scavava il terreno. «Sai, Rover, non riuscirai a farmela.» Il cane lo guardò, poi ricominciò a scavare. «Tu farai un errore uno di questi giorni, dirai una parola, una sola, e allora ti tiro il collo.» Rover continuò a scavare. «Piccolo demonio astuto, Webster me l'ha messo alle costole e lui recita la sua parte, scava, insegue i conigli, si gratta le pulci, l'immagine perfetta del cane perfetto.» Perché i cani, da più di 100 anni, erano diventati guardiani e poliziotti che tenevano sotto controllo i mutanti umani. Si udì un passo sull'erba. «Ah, mi stavo proprio chiedendo quando sareste venuto, presidente, perché sapete, ogni ora che passo da umano per me è un'autentica tortura.» «Mi dispiace, ma dovevamo essere sicuri, controllare il vostro rapporto.» Webster si girò verso il cane. «Allora, Rover, cosa mi dici?» «Sì, cosa dici, Rover?» «Umano, ma non completamente. Non è un mutante, è qualcosa di diverso. Alieno.» «E dopotutto sono stato un rimbalzante per 5 anni. Lei conserva la sua personalità gioviana e il cane è in grado di rilevare questa sua diversità. I cani hanno poteri medianici. È per questo che li abbiamo messi a sorvegliare i mutanti.» «Benissimo. Mi crede dunque?» «Temo di sì.» «Teme?» «Sono terrorizzato. Provate a immaginare cosa accadrebbe se raccontassimo a tutti la sua storia. Chi non vorrebbe andare su Giove? Nessuno vorrebbe restare umano. Alla fine non ci sarebbero più umani. Ci ha pensato?» Ascolti, sono stato onesto. Sono subito venuto da lei al comitato. Avrei potuto io stesso informare la stampa, ma non l'ho fatto.» «Lei intende dire che la Commissione Mondiale non ha il diritto di decidere da sola, che anche il popolo dovrebbe dire la sua prima che sia raggiunta una decisione?» «Beh, sì.» «Le dirò sinceramente che non mi fido del popolo. Lei sa cosa accadrebbe? Isterismo di massa. Ciascuno penserebbe a se stesso. La razza umana sparirebbe. Lo sa, Webster? Sono nauseato. Sono tornato per dirvi la cosa che volevate sapere, per la quale avete speso miliardi di dollari e centinaia di vite umane. Avete piazzato stazioni di conversione su tutto Giove, avete mandato dozzine di uomini che non sono tornati indietro, li avete creduti morti e avete continuato a mandarne altri e nessuno è tornato. E sapete perché? Perché non volevano tornare. Non potevano sopportare l'idea nauseante di tornare a essere uomini. E poi sono tornato io. E a che è servito? Chiacchiere, interrogatori, parole vuote. Webster, non vi permetterò di rovinare anche questa occasione. Il mondo ha già perso troppo per colpa di voi. Webster, dirò tutto quello che so di Giove alla gente. Lo griderò, se necessario. Fuller si voltò di scatto e si allontanò correndo. Devo prenderlo, capo? No, lasciamolo andare. Ne ha il diritto. Il viso di Jenkins apparve sullo schermo. Un viso vecchio, antiquato, brutto. Non il viso liscio e umano dei robot moderni. Sono spiacente di disturbarvi, signor Webster, ma è accaduto qualcosa di insolito. Joe è qui, a casa Webster. Mi ha chiesto di chiamarvi per parlare con voi. Va bene. Sullo schermo apparve la faccia del mutante, scavata con una carnagione grinzosa, occhi grigio-azzurri che scintillavano e capelli che cominciavano a ingrigire sulle tempie. Jenkins non si fida di me, Tyler. Se è per questo, nemmeno io. Hai messo anche i cani a spiarci, ma non ti abbiamo mai dato fastidio, no? Sono venuto a riportarti la filosofia di Juwain. Ce l'hai fatta. E ora? Voi uomini credete di capire, ma per voi è impossibile. È che non conoscete la comprensione, al massimo la tolleranza. Ora, con la filosofia di Juwain, potreste riuscirci. Telepatia? No, noi mutanti siamo telepatici. È qualcosa di diverso. Con la filosofia di Juwain, tu capisci non solo le parole dell'altro, ma anche i pensieri, i sentimenti, le emozioni. E vedi le cose come le vede lui. Perché mi stai dicendo questo, Joe? L'ho rubata alla tua famiglia tanto tempo fa e oggi la riporto a te. Vuoi? E cosa avete intenzione di chiedere in cambio? Molto. Ma forse ne varrà la pena. Lo schermo si spense e Webster chiuse gli occhi, ascoltò il battito del sangue che gli pulsava nel cervello. Ogni uomo, dunque, poteva diventare capace di vedere le cose con gli occhi degli altri. Allora tutti avrebbero creduto a Fowler. Avrebbero visto e sentito com'è Giove davvero. E la razza umana sarebbe finita. Ecco il dono dei mutanti. Ecco la trappola. È questo che volevano. La terra tutta per loro. Finalmente. I mutanti erano una razza diversa, un germoglio che era andato troppo lontano. Uomini senza bisogno di una società, senza bisogno dell'approvazione degli altri, immuni dalle pressioni sociali, completamente privi dell'istinto gregario che teneva unita la razza. Avremmo dovuto sterminarli, tutti. Avremmo dovuto spazzarli via, come si fa con una malattia pericolosa. Ma l'uomo aveva abbandonato la violenza e l'assassinio. Webster aprì un cassetto della scrivania, vi frugò dentro. La sua mano ne uscì stringendo qualcosa che non avrebbe mai pensato di usare. Un relitto, un pezzo da museo. Che aveva riposto là, molti anni prima. Con un fazzoletto pulì il metallo della pistola, ne controllò il funzionamento con dita tremanti. Fowler. Fowler è la chiave. Se Fowler muore... No. Non posso. Non posso, io... Io non posso farlo. E la ripose nel cassetto. Qui, nel sesto racconto, intitolato Ginevra, troviamo il marchio inconfondibile della narrativa canina. Qui abbiamo la prova che i cani raccontavano questa leggenda davanti a fuochi e parlavano dell'uomo, ormai sepolto a Ginevra o scomparso su Giove. Qui abbiamo le prime esplorazioni dei cani nei mondi delle ombre, i primi passi compiuti verso lo sviluppo di una fratellanza animale. Per quanti credono che l'uomo sia esistito davvero, il racconto fornisce la prova che una grande catastrofe colpì la razza umana. Nel volume Il mito dell'uomo, gli autori pongono questa domanda: se l'uomo avesse preso una strada diversa, avrebbe potuto col tempo diventare grande come il cane? Il coniglio scomparve dietro un cespuglio mentre il cagnolino nero che lo inseguiva si fermava di botto. Sul sentiero c'era un lupo che stringeva tra le mascelle il corpo straziato del coniglio. Ebenezer rimase immobile, ansante, con un senso di nausea a quella vista. Era un coniglio così grazioso. Shadow, il piccolo robot, sbucò dal cespuglio e si fermò accanto al cane. Il lupo spostò il suo sguardo truce dal cane al robot e fece un ringhio basso. Non avresti dovuto farlo, lupo. Stavamo giocando. Tu hai ammazzato. È inutile parlargli. Non capisce una parola. La prossima cosa che farà sarà mangiarti. Ma ci conosce. Fa parte di un branco che abbiamo sfamato. Jenkins lo ha anche curato. Il lupo avanzò lentamente, poi con cautela posò il coniglio a terra e lo spinse col muso. Te lo sta regalando. Ecco, hai visto? Te l'ho detto che ricordava. Il cane avanzò di un passo scodinzolando, con il naso proteso. Il lupo allungò il suo a fiutarlo, i due nasi si sfiorarono. Poi il lupo indietreggiò. Andiamocene, non mi fido. Ma non è colpa sua, lui non capisce, lui vive così. Per lupo il coniglio è solo un pezzo di carne, come un giorno lo era per noi. Muovendosi lentamente il lupo avanzò e, scodinzolando con aria di scusa, afferrò il coniglio morto e scappò via. Se l'è ripreso, che razza di sporco! Però me l'aveva dato, solo che aveva così fame che non ha potuto resistere, ma per un momento ha fatto qualcosa che nessun lupo aveva mai fatto prima. Il cane guardò la foresta, fiutò le foglie marcite e respirò l'aroma penetrante delle nuove foglie dei boschi nella primavera imminente. Forse un giorno... Come no? Forse un giorno anche i lupi diventeranno civili. I sogni di voi cani. Anche gli uomini sognavano. E dove sono? Ora? La verità è che non sono rimasti in molti, soltanto i mutanti chiusi nelle loro torri e la piccola colonia di uomini che sopravvive a Ginevra. Tutti gli altri sono andati su Giove. Sai cosa dovrei fare? Dovrei dire a Jenkins che sei venuto qui nel bosco. Lo sai che dovresti ascoltare in questo momento? Già, invece che dare la caccia ai conigli dovrei starmene accucciato nella casa dei Webster ad ascoltare. Ascoltare, come sapevano fare i cani. I suoni, i rumori, gli odori e la consapevolezza che c'era qualcosa di vicino, solo che i suoni erano deboli, ancora lontani e difficili da afferrare, ed era ancora più difficile comprenderli. E invece corro dietro ai conigli. È l'animale che c'è dentro di me, il vecchio cane pieno di pulci, mastica ossa e scavabuchi, che non mi vuole lasciare. Tornarono alla casa dei Webster. Era così antica che aveva preso il colore della terra. Dal fianco del colle venne il suono dei campanacci, un coro di latrati frenetici. Erano i cuccioli che riportavano le vacche per la mungitura serale. John Webster trovò la piccola cripta sotto la volta cosparsa di polvere finissima dall'odore acre, esattamente dove la mappa aveva indicato, sotto la sede del vecchio governo, una cripta nei sotterranei di Ginevra. E nessuno ne sapeva niente. Scorse un pannello pieno di manopole, interruttori, quadranti. Quel luogo doveva essere la sala di controllo di un dispositivo di difesa. Difesa? Certo, ci sarà stato bisogno di un sistema di difesa 1000 anni fa. Una difesa della quale non c'era mai stato veramente bisogno, ma necessaria, perché la fratellanza fra i popoli e fra gli uomini era sempre stata una costruzione fragile. La sete del governo umano avrebbe guadagnato fiducia solo grazie alla consapevolezza psicologica di una difesa adeguata e invalicabile. E se abbassasse l'interruttore? Era inutile chiederselo ora che a Ginevra erano rimaste soltanto le poche centinaia di futili vite umane presenti su tutta la Terra. Non c'era più niente da cui difendersi. Forse. E così chiuse la porta massiccia, fece scattare la serratura e tornò a casa. Una bella casa nella più bella strada di Ginevra, con grandi viali alberati, aiuole fiorite, marciapiedi che brillavano, puliti giorno e notte dai robot. Una grande città, l'ultima della Terra, che aveva perduto il suo scopo. I 5.000 uomini rimasti si erano ritrovati improvvisamente padroni di tutto il mondo, di quello che altri uomini avevano costruito e che, andando su Giove, avevano lasciato. Non c'era governo, ma non ve n'era necessità. Nessun uomo ruba quando può prendere ciò di cui ha bisogno. Diritto di proprietà era diventata una frase priva di significato. Avendo a disposizione tutto, l'uomo abbandonò la lotta, rinunciò alla conquista e decise di godersi la vita. Ma finì per perdere ogni desiderio. Ora John, nel suo studio, guardava il quadro sopra il caminetto, un'enorme tela con una casa dipinta a colori tenui, aggrappata alla terra. Quella era stata la vera casa dei Webster e Sara l'aveva dipinta per lui. Pensò a lei, che ora, dopo un lunghissimo tempo, era tornata e lo aspettava sulla spiaggia. Quando aprì la porta sentì subito lo sciacquio delle onde, il calore di un sole bianco e accecante. L'aria aveva un profumo salmastro, portato da un vento leggero, e Sara, sdraiata sotto le palme, gli tese le mani e gli sorrise. Non sembra essere passato il tempo, sei bella come il primo giorno che ti ho vista. Eppure ne è passato, John. È bellissimo qui. Il tuo robot progettista fa miracoli. Si è divertito molto, sì. Tu stai bene? Mi sembri stanco. Non lo so, Sara. Ho paura. Paura? Di questa stanza, delle altre, di tutto. Sono solo illusioni. Un bel sole artificiale. Se non mi piace, premo un pulsante e avrò la luna. Sì. Un'illusione. È tutto quello che abbiamo. Nessun compito, nessuno scopo, nessun posto dove andare. Allora vieni con me, John. Con te? E dove? Ho deciso di prendere il sonno. No, Sara. No. Vieni. Vieni, poche centinaia d'anni. Quando ci sveglieremo, forse sarà tutto diverso. Anche il sonno è un'illusione, Sara. Lo so. Ma tu non lo sai finché dormi. È tutto naturale nel sonno. Molto più naturale della vita. E quando ci si sveglia, si è in armonia con l'epoca in cui ci si ritrova. E potrebbe essere un'epoca migliore di questa. Sara, non sarà migliore. A meno che qualcuno non decida di fare qualcosa per cambiare. Sai, ho sempre pensato che se noi due avessimo potuto restare insieme. Si tratta di un'altra cosa che abbiamo perduto. Sì. Un'altra cosa che la razza umana si è lasciata sfuggire, i legami affettivi. Sì, ormai è troppo tardi. Lo scopo della vita. Sara, nostro figlio. Tom è un uomo adesso. Vive nei boschi, una borsa di sale, arco, frecce, nient'altro. Addio, John. Ti farò riservare un posto accanto al mio. Se cambi idea. La porta cigolò e il robot entrò nella stanza con passo felpato. Le preparo il gabinetto, signore. Grazie, Oscar. John Webster si abbandonò sulla poltrona. Fissò le fiamme sui ceppi mentre l'aria calda risaliva su per la cappa. È bello, signore. Piace anche a te. Ricordi ancestrali, Oscar. Io e te siamo due anacronismi. Nessuno accende più il caminetto. John fissò casa Webster sulla tela. Mentre la dipingeva, Sara gli raccontava le storie che aveva rintracciato dopo lunghe ricerche, storie di strani esseri, di cani e di robot, di mutanti e di boschi, di un grande vecchio robot. Sì, Jenkins, Jenkins, che aveva servito la famiglia per generazioni. Che strano, a pensarci, robot e cani che vivono assieme. Chissà se c'è ancora qualcuno, forse potrei provare a chiamare casa Webster. Se trovassi la combinazione, se riuscissi a riattivare il visifono, forse. Non dovevi andare nel bosco dietro al coniglio, Ebenezer. Ecco, l'ho sgridato anch'io. Ma è anche colpa tua, Shadow. Uffa. Tu sei assegnato a Ebenezer, sei parte di lui, ricordalo. Scapperò. Per unirti ai robot selvaggi, suppongo. Shadow brontolò e Ebenezer guardò Jenkins coi suoi occhi grandi. Povero piccolo, scappare di casa dietro a un coniglio solo per giocare. Troppo in fretta. Sono cresciuti troppo in fretta, con così tanti compiti. E quella loro particolare sensibilità verso le cose invisibili che li fa levare sulle zampe con il pelo ritto anche se non ci sono orme sulla neve e che li fa ululare quando qualcuno muore. Un campanello ronzò e Jenkins fece un sobbalzo. Mentre una luce verde ammiccava sul visifono, restò immobile, incredulo. Qualcuno chiamava, dopo quasi 1000 anni. Qualcuno chiama. Corse barcollando, cercò il pulsante con dita ansiose, lo premette. La parete si dissolse. Un uomo era davanti a lui e dietro l'uomo le fiamme di un caminetto. Tu sei... Jenkins. Voi? Io sono John Webster. Jenkins si appoggiò al visifono spaventato da sensazioni che non erano da robot. Vi avrei riconosciuto dovunque. Il tuo nome è stato tramandato in famiglia, ti abbiamo sempre ricordato. Siete a Ginevra, signore? Sì, sono a Ginevra, ma vorrei venirti a trovare. Oh... La casa è piena di cani, signore. Certo, i cani parlanti. Certo, signore, e i cani saranno felicissimi di vederla. Sanno tutto della famiglia. La sera, prima di addormentarsi, raccontano le antiche storie di questa casa. E tu, Jenkins? Anch'io sarei felice. Siamo stati tanto soli qui. Dio era venuto. Ebenezer era accucciato nel buio fuori dalla stanza. Se Jenkins sapesse che sono qui. La porta dello studio era aperta e ne veniva un odore insolito che gli faceva rizzare i peli sulla schiena dalla gioia, perché avere un uomo in quella casa era per i cani come la venuta di un dio. Ebenezer entrò con infinita cautela. John Webster lo vide. Vieni, amico, vieni. L'uomo si chinò su di lui e Ebenezer sentì due mani forti che lo prendevano e quell'odore. Ebenezer era come paralizzato con le ossa di gomma. E così sei venuto a vedermi? Non sei arrabbiato? Non lo dirai a Jenkins? No, ma perché dovrei? Ebenezer gli si accucciò in grembo, beato. Webster gli accarezzò la testa. Come ti chiami? Ebenezer. Ah, e cosa fai, Ebenezer? Ascolto. Ah, ascolti? È il mio lavoro. Ascolto le ombre. Ah, le ombre. E dove stanno queste ombre? In nessun luogo, perlomeno non della Terra. È come se fossero dentro un'altra stanza, a cui noi non possiamo accedere, ma solo origliare. Le ombre. Le ombre. Cose che vivono dietro le pareti, cose che si sentono e non si possono vedere. Ombre. Spiriti, se non fai il bravo, verranno a prenderti le ombre. Così avremmo detto noi umani. Non puoi capire una cosa, non la puoi vedere, allora non c'è, non esiste, eh? È un fantasma. Ecco, così è più semplice, più comodo. Una lingua calda e umida lambì il mento di Webster. Mi piaci. Nessuno mi ha mai tenuto così. Il fuoco stava morendo, la stanza era al buio e c'erano altre cose. Frusci, mormorii, forse i suoni della vita di tutti i Webster, forse la storia che prima di morire striscia sui pavimenti, siede negli angoli, guarda dalle pareti. Mio figlio, pensò Webster, mio figlio che vive nei boschi e il nulla davanti ai suoi occhi, il nulla spaventoso e agghiacciante che si stende per tutti i giorni a venire. Jenkins, in piedi nell'oscurità, ascoltava il silenzio. Gli altri dormivano, ma lui no, i robot non dormono mai. 2000 anni. Sono qui da 2000 anni. Molto tempo. Molto tempo anche per un robot. I Webster mi volevano bene. Guardò fuori, dove le macchie scure delle grandi querce si stagliavano sul fondo della collina. Gli uomini se n'erano andati. E adesso uno era ritornato. Dovrei andare a vedere come sta. Magari potrei portargli da bere. Anche se il whisky, temo, sarà andato a male. 1000 anni sono troppi, anche per una bottiglia di buon whisky. E si affrettò contento, perché era di nuovo al servizio di un Webster. La porta dello studio cicolò appena. È permesso, signore? Siete comodo? Desiderate qualcosa? Grazie, Jenkins. Sì, c'è qualcosa che desidero. Vorrei parlare con te. Dei cani. Oh, hanno tanta buona volontà, ma è difficile per loro perché non hanno nessuno. Beh, hanno te. Io non basto, signore. Sono soltanto una specie di istruttore. Loro vogliono gli uomini. Ma dove stanno andando? Cosa cercano di fare, Jenkins? I cani sono medianici, signore. Seguono i fantasmi. I fantasmi? Ecco, le cose che gli uomini chiamano fantasmi, ma non sono fantasmi. Sono forme di vita diverse, su un piano diverso dell'esistenza. Aspetta, aspetta. Vuoi dire che sulla Terra possono coesistere diversi piani di vita simultaneamente? Comincio a crederlo, signore. E poi i cani fanno altre cose. Cercano di fare amicizia con gli altri animali e sorvegliano i mutanti e i robot selvatici. Fantasmi che non sono fantasmi. Noi uomini abbiamo sempre cercato di razionalizzare. Forse alla fine ci siamo solo illusi che fantasmi e ombre non esistano. Potrebbe tornare con noi, signore, restare qui. E tu credi che servirebbe, Jenkins, che l'uomo sarebbe utile? L'uomo? L'uomo potrebbe assumere la guida. E riprendere il comando. Mio caro Jenkins, C'è sempre il rischio che l'uomo possa sbagliare ancora una volta e distruggere tutto. Tutto quello che i cani stanno facendo. Ma l'uomo è saggio. John Webster non rispose. Tornato a Ginevra, Webster si arrestò sulla soglia della cripta. Se questa è una difesa, tiene fuori il nemico, ma tiene anche dentro coloro che si difendono. Attraversò la cripta, toccò l'interruttore, lo mosse lentamente e capì che avrebbe funzionato. Spinse con forza e l'interruttore scattò. Si voltò e uscì velocemente dalla cripta. Un brontolio sordo lo seguì mentre le pareti tremavano. È fatta. L'ultima traccia umana, l'ultima città è chiusa. Ora gli uomini non possono più uscire. Per secoli e secoli non hanno messo piede fuori dalla città, ma adesso che non possono più uscire, forse decideranno di fare qualcosa. I topi in trappola sono capaci di realizzare le cose più impensate se prima non impazziscono. Salì sulla collina, lungo la strada che aveva preso Sara pochi giorni prima. I robot del tempio erano gentili, gli mostrarono lo scomparto dove Sara dormiva e il posto che lei aveva riservato per lui. Vorrà prima scegliere un sogno, signore? No, grazie, non voglio un sogno. Capisco. Per quanto tempo, signore? Tempo. Sì? Per quanto tempo desiderate dormire? Per sempre. Gli uomini sono pericolosi. Conservano sempre l'incrollabile certezza di essere l'unica forma di vita che conta, di essere i signori del creato. Ma i cani devono avere una possibilità e devono tentare da soli. Sì, perché se l'uomo prendesse il comando, riderebbe delle ombre dietro i muri, si opporrebbe all'idea di civilizzare gli animali selvaggi. Sì, da soli. Il loro sogno non deve essere inquinato dall'alito fetido del pensiero umano. Il melologo Anni senza fine, siti, sei racconti di Clifford Simak, un progetto della Casa d'Argilla. Lisa Ferlazzo Natoli, Alice Palazzi, Maddalena Parise, con la collaborazione di Alessandro Ferroni, Tania Garriba, Fortunato Leccese, Diego Sepe, Roberta Zanardo. Adattamento e cura di Silvana Natoli. Voci registrate e attori Simone Castano, Lorenzo Frediani, Tania Garriba, Silvio Impegnoso, Fortunato Leccese, Anna Mallamaci, Alice Palazzi, Diego Sepe, Roberta Zanardo. Realizzazione per strumenti e tastiera del canone enigmatico a quattro voci 1074 di Johann Sebastian Bach, Gianluca Ruggeri. Esecuzione dal vivo Ivano Guagnelli. Allestimento Camilla Carè e Maddalena Parise. Regia del suono Alessandro Ferroni. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Antonino Pirillo, co-direttore artistico della quinta edizione del Festival Multidisciplinare Sempre Più Fuori, a Roma dal 7 al 18 luglio 2025, ben trovato. Buongiorno a tutti e a tutti. Cos'è questo festival? È un festival che mette assieme dalla letteratura al teatro, alla musica, alla danza. Quest'anno abbiamo aggiunto anche due podcast, uno realizzato dal gruppo di Chiara Bersani con Dalila D'Amico, Lemmo e Giulia Traversi. E poi un altro podcast che è diventata poi una vera e propria installazione e Viaggi della compagnia Bartolini Baronio, che ha realizzato dopo un lungo laboratorio ospedale con pazienti che hanno disturbi alimentari e potrà essere visitata e ascoltata al Goethe Institut di Roma, che è una delle sedi insieme all'Accademia Tedesca Roma Villa Massimo, a cui quest'anno si aggiungono anche il Cimitero Monumentale del Verano e il Policlinico Umberto I, che stanno ospitando dal 7 e si potrà fare questa esperienza fino al 18 Remote Roma dei Rimini Protocol. È un format che loro hanno realizzato in moltissime parti del mondo, in Italia in pochissime città, e per Roma è stato fatto proprio un lavoro site specific a partire appunto dal cimitero. Si passerà poi dalla stazione Tiburtina in metro per arrivare al Policlinico su una bellissima terrazza per il gran finale, e le persone saranno guidate da una voce frutto dell'intelligenza artificiale. Com'è stata la scelta artistica? Di solito noi cerchiamo di scegliere i progetti che sono in repertorio, per esempio per la Casa d'Argilla L'amore del cuore dell'autrice Churchill, e la associamo a delle opere più giovani e sperimentali, come per esempio Contralt Kanch, che porterà a Fanisi, che è stato tra i progetti finalisti di Inbox, e Caterina Marino, che porterà invece un progetto che è stato finalista sia in box che a scenario, e si tratta di Still Alive, un progetto sulla depressione, ma lo fa con una leggerezza che porta però poi a riflettere. E poi quest'anno ci siamo aperti all'internazionale, per cui avremo in prima nazionale Laurie Anderson, che non canterà ma farà uno speech sui temi della libertà, contro la guerra, contro gli autoritarismi, ed è un progetto che le aveva commissionato Milo Rau per il suo festival austriaco, e per la prima volta lo farà in Italia da noi. Ospiteremo anche Jenny Erpenbeck, l'autrice vincitrice del Kaiser Prize, che sarà prima a Letterature l'11 luglio, per poi arrivare da noi il 12, e questa è una collaborazione appunto col Festival di Letteratura, il Festival Internazionale di Roma. Tuchu è una performance della compagnia Bartolini Baronio e si realizzerà in un van Volkswagen anni 70. Le persone entreranno in 5 turni e potranno assistere per 8 minuti per questa performance, e l'abbiamo associata ad una mostra che sono degli scatti originali del fotografo ufficiale della Nouvelle Vague, Raymond Cochetier. Invece Tascollo con Isabella Aragonese porterà in scena le poesie di Masha Kaleko, musicate. Quanti sono gli appuntamenti? Sono tantissime, non sono solo gli spettacoli, faremo anche delle cene al buio. Negli anni stiamo portando avanti proprio tutto un progetto sull'accessibilità, e al Goethe faremo infatti due cene al buio con l'Unione Ciechi e Ipovedenti di Roma, e abbiamo fatto l'audiodescrizione poetica a cura di Aldi Qua Artist, e in questo caso Giuseppe Comuniello e Camilla Guarino l'hanno realizzato per la prima il 7 luglio di MK, appunto Bermudas. Riferimenti web per i dettagli del programma? Abbiamo sia i social, sempre più fuori, Instagram e Facebook, e il sito www.semprepiufuori.com. Quinta edizione del Festival Multidisciplinare Sempre Più Fuori a Roma dal 7 al 18 luglio 2025. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore artistico Antonino Pirillo. Alla prossima! Grazie, vi aspettiamo. Con Tiziano Panici di dominio pubblico per presentare India Città Aperta a Roma al Teatro India dall'8 luglio al 3 agosto 2025. Ben trovato. Ciao Federico, ben trovato, anzi ben ritrovato, visto che ci siamo sentiti poco fa per il festival proprio di dominio pubblico. Avevo anticipato che sarebbe stato stavolta solo l'inizio di una manifestazione estiva più larga, più importante, più complessa. Questo proprio perché sono felice, insomma, che ci sia stata accordata la fiducia da parte del Teatro di Roma, ma anche dal Comune di Roma, di curare appunto questa estiva con questo progetto che abbiamo chiamato India Città Aperta. Terremo compagnia alla città per tutta l'estate, con l'obiettivo di rendere il Teatro India proprio uno spazio attraversabile, aperto, dove accadranno moltissime cose. Ci sono più di 50 eventi in programmazione, oltre 100 artisti e artiste ospitati. È un programma molto variegato, l'abbiamo volutamente pensato trasversale, su più discipline, quindi come siamo abituati a fare appunto già sul dominio, il teatro è il comune denominatore, ma c'è tanta musica dal vivo, tantissima poesia e parola, la letteratura anche al centro un po' di questa manifestazione, sia in forma di poesia, sia in forma di scrittura che di prosa. C'è la danza, c'è il circo e soprattutto ci sono degli spazi dedicati sia ad alcune forme artistiche, ma in realtà anche a alcune forme conviviali e sociali. Per esempio, tutti i mercoledì c'è un programma interamente dedicato ai più piccoli, che è India Kids, che viene curato dall'associazione Zip Zone, che già si prodiga in attività dedicate sia alle età più giovani, sia in generale a manifestazioni culturali, che ha invitato degli artisti da Shembambur Marrasé, Daniele Antonini, India Baretto, Pier Cortese, e questi animeranno il Giardino di India con eventi e attività gratuite e uno spettacolo che viene fatto ogni sera il mercoledì. Quindi dalle 18 fino alle 22 è uno spazio safe anche per i genitori che si vogliono godere la serata con gli amici. Allo stesso tempo, quando parlavo di progetti editoriali, ci sono ben tre format dedicati ai libri. Ci sarà il Book Vibes di Giuliana Nia, che fra l'altro è un'operatrice e animatrice culturale che seguirà molto da vicino anche tutta la parte musicale, e con la proposta anche del format queer Amorucci, che porta in giro ormai da tanti anni. Ci sarà il We Reading portato da Zalib, e ci saranno anche le serate di notti d'arte curate dal format che è più conosciuto come Libri e Spritz. E tutto questo conviverà all'interno dello spazio d'India. Ci saranno ben due palchi attivi, uno proprio nell'area free, per l'appunto, che è quella del giardino quando si entra dall'ingresso principale, dove tra l'altro verrà allestito anche uno spazio libreria che verrà curato da Red Bull Press Edizioni, e invece un palco dell'arena, quindi dove si entra con biglietto. Ci sarà un biglietto unico a 10 euro dove invece ci saranno i main events, quindi una programmazione anche lì molto variegata tra teatro, danza e musica, dove ritroverete la stessa Anania con Ivan Talarico, Filippo Tini accompagnato da Lorenzo Minozzi, Wow Incendi Spontanei, che è un collettivo di poeti e poetesse, Anonima Tea, Giulia Blasi, Cristiana Vaccaro, Emanuela Cappello, Leonardo Manzan, Lorenzo Maragoni e Niccolò Fettarappa. Ecco, un programma molto composito, dove fra l'altro ci sono delle eccellenze femminili, questo grazie appunto anche all'aiuto nella curatela da parte di alcune delle artiste che vi ho citato, tra cui Giulia. E l'8 di luglio inaugureremo proprio con concertino di Niccolò Fettarappa. È un concertino per gli sconfitti della vita, è un titolo che amo molto, Niccolò Fettarappa con l'accompagnamento di Lorenzo Minozzi, e a seguire in arena Bei Ricordi Show, che sarà un cabaret di artiste e di artisti tutti molto giovani fra l'altro, curato da Anomalia Media e da Zip Zone, con Marcello Caporiccio, Silvia Ignoto, Emma Quartullo, Dimensione Brama, che sono era dal vivo, Rita Cancellaro, Umberto Contini, Isabella Mottinelli, Gianmarco Saurino. E tutto questo comunque verrà introdotto e presentato da un opening alle ore 19, dove vi spiegheremo e vi racconteremo un po' nel dettaglio tutto il programma. Quindi noi l'8 luglio, che è martedì, alle ore 19 vi aspettiamo, c'è il Bar India sempre aperto. Gli spazi e gli orari? Gli spazi sono quelli che ho già citato, quindi lo spazio free da cui si entra dalle ore 18 è il giardino, quindi affaccio gazzometro, il primo palco è montato lì. Sul palco avverranno soprattutto i format letterari, i talk, le presentazioni, ma anche spettacoli e piccoli concerti. Ci tengo a dire che ci sarà un'intera generazione di giovanissimi musicisti che viene intercettata anche qui da una collaborazione tra realtà, quindi dalla storica Controchiave alla famiglia Val di Serri, agli stessi Dominio Pubblico. Avremo la fortuna di ospitare Sale, Eugenio Saletti, che è un nostro ospite storico e ormai sta diventando un musicista e cantante ha fermato, i cosmonauti borghesi che hanno aperto quest'anno il 1° maggio insieme agli Origami Smile, che è proprio il gruppo appunto dove suonava Francesco Valdiserri, a cui è dedicato tutto questo progetto musicale di palco di mezz'estate. E poi ancora troveremo qui sopra Erpinto, Emilio Stella, CO2 Baby, Kino, quindi nomi assolutamente giusti per passare una bella serata sotto le stelle. Poi nell'arena invece, che solitamente aprirà alle ore 21, massimo 21:30, i main event con alcuni concerti di pregio. Segnalo a Cruda Voz, concerto di Lavinia Mancusi, folk singer e vocalist che suonerà con una band fantastica, e a Cruda Voz è proprio il suo ultimo disco che viene presentato dopo una serie di sperimentazioni di successi musicali, e fra l'altro sarà aperto da uno spettacolo di Anonima Teatri di Alexandros Memetà e Ioris Petrillo, Isabel, tratto da una storia vera. Sempre appunto nella parte dell'arena che è a pagamento, lo spettacolo Brutta, storia di un corpo come tanti, della scrittrice Giulia Blasi, interpretato da Cristiana Vaccaro. Lorenzo Maragoni e Niccolò Fettaraffa, Solo quando lavoro sono felice. Ovviamente stiamo parlando in questo caso di eventi a pagamento, ma che sono sempre bloccati allo stesso costo di 10 euro. L'acquisto e le prenotazioni attraverso il sito del Teatro di Roma, quindi teatrodiroma.net. Sui nostri social, quelli di dominio pubblico, quelli di Fondazione Teatro di Roma, ci sono tutti i link e le indicazioni per potersi prenotare e registrare. In ogni caso, India sarà sempre aperta, sarà una città aperta per l'appunto dalle ore 18 fino alle ore 00. C'è anche un programma di attività diurne tra mostre, laboratori e talk che trovate sempre sul sito, a partire da un atelier per i più piccoli, per i bambini, organizzato sempre da Zip, che abiteranno gli spazi del Teatro India per fare un laboratorio di teatro, circo e animazione. India città aperta a Roma al Teatro India dall'8 luglio al 3 agosto 2025. Un saluto e un ringraziamento a Tiziano Panici di Dominio Pubblico. Alla prossima! Grazie a te, un bacione! Con Giulia Vanni, direttrice artistica del Festival Multidisciplinare Teatri d'Arrembaggio, ad Ostia al Teatro del Lido dall'11 luglio al 3 agosto 2025. Ben trovata. Grazie, buona giornata. Come va? Come va? Bene, bene. Ce lo presenti? Teatri d'Arrembaggio intanto è arrivato al suo 10° anno d'attività, quindi quest'anno con grandi festeggiamenti abbiamo un ricco programma. Partiamo venerdì 11 luglio con Molto dolore per nulla, un testo comico, graffiante, brillante di Luisa Borini che parla delle relazioni, e andiamo avanti con la prima delle nostre piraterie stand up con Nathan Kiboba, e proseguiamo perché poi quest'anno il filone della stand up è tutto dedicato all'intercultura con Monir Gassi, Sam, Orea Sass, Yoko Yamada per concludere il 2 di agosto, quindi saranno sabati dedicati all'intercultura e all'internazionalità e a come si mischia e a come può contribuire a un nuovo sguardo sulla satira, quindi ci ha fatto molto piacere fare questa programmazione. Ovviamente non mancheranno le domeniche dedicate alle famiglie, ai più piccini. Partiamo a stromba tutto domenica con Laura Kibel, che è una maestra del teatro con i piedi, e proseguiamo poi con Max Paiella che ci farà un bellissimo spettacolo sulle fiabe di Rodari. Poi proseguiamo con Diviso per Zero, che ha recentemente vinto in Box Verde, e concludiamo poi con Sea Dogs, che ci presentano questo nuovo spettacolo che si intitola Ciurma, che è perfetto per una manifestazione che si intitola Teatri d'Arrembaggio. Nel complesso quanti sono gli appuntamenti? Sono 16 appuntamenti, 12 spettacoli, 4 laboratori per i più piccini, sempre la domenica prima dello spettacolo, e come sempre una grande programmazione molto, molto varia, molto viva, e vi aspettiamo quindi nel cortile del Teatro del Lido. Ovviamente la manifestazione è interamente gratuita, c'è la prenotazione obbligatoria solo per i laboratori, vi aspettiamo al Teatro del Lido. Su cosa avete puntato per la programmazione? Abbiamo puntato su tante linee, come dicevo prima, appunto i sabato sono dedicate alla satira inserita nel filone dell'intercultura, ma avremo dei testi molto interessanti, anche molto importanti tutti i venerdì, perché appunto partiamo con Luisa Borini, come dicevo prima, ma avremo anche testi di Mattia Torre, Giacomo Ciarrapico, Massimiliano Bruno per la regia di Daniele Trombetti, e saranno tutti testi brillanti e coinvolgenti. Chiuderemo con il burlesque a cura di Jolie Tees, Chiara Becchimanzi e Giulia Nervi. Insomma, una programmazione varia, leggera, ma sempre con un punto di vista interessante. Questa è un po' la cifra di Teatro del Rambaggio ormai da 10 anni a questa parte. La manifestazione è gratuita, come dicevo, perché crediamo che la cultura debba essere accessibile a tutti e non solo a chi se lo può permettere. È un po' la nostra mission e quindi ci fa piacere animare ormai da 10 anni appunto il mare di Roma. Ci sono dei giorni della settimana dedicati al festival o è tutte le giornate? Il festival si svolge tutti i venerdì con il teatro off, il sabato appunto con la stand up e la domenica con le attività dedicate ai più piccoli, quindi partiamo con i laboratori alle 17 per poi andare verso gli spettacoli per le giovani generazioni alle 19. I riferimenti web per tutto il programma? Valdrada Compagnia Teatrale su Facebook, Valdrada Teatro su Instagram e sul nostro sito valdradateatro.it e poi andate sulla pagina dei festival, li trovate tutti, e anche quelli storici, anche l'archivio. 10ª edizione del Festival Multidisciplinare Teatri d'Arrembaggio ad Ostia, Teatro del Lido, dall'11 luglio al 3 agosto 2025. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Giulia Vanni. Alla prossima! Grazie a voi! Con Luca Ricci, co-direttore artistico della 23ª edizione di Kilowatt Festival, dal titolo Un'invincibile estate, a Sansepolcro dall'11 al 19 luglio 2025. Ben trovato. Ben trovato a te Federico e a tutti gli ascoltatori. Spieghiamo cos'è questo festival. Un festival multidisciplinare, teatro, danza, musica, a Sansepolcro, in provincia di Arezzo, dove nasce il Tevere, quindi 9 giorni, almeno 7-8 spettacoli al giorno, ma anche tanti incontri, laboratori, per cui insomma un'occasione di vivere un borgo rinascimentale molto bello, ma anche essere sopraffatti da tanta bellezza e tanto pensiero che si realizza sulla scena. Come si caratterizza questa edizione? Questa edizione ha un titolo che si chiama Un'invincibile estate, una frase di Albert Camus. Viviamo un presente di sopraffazioni, di violenze e anche di guerre, che insomma fa pensare a una metafora di un inverno che non vuol finire, e Camus dice: ho scoperto nel più gelido degli inverni di avere dentro di me un'invincibile estate. Camus è un umanista e quindi in qualche modo ci dice che noi come esseri umani abbiamo un cuore caldo, un centro insomma da cui poter ripartire. È un invito di speranza e nei 45 spettacoli che abbiamo selezionato per questa edizione abbiamo provato a tenere vivo questo filo rosso di momenti, ipotesi, esperienze, possibilità a cui possiamo aggrapparci per continuare a credere nell'essere umano. Come si articoleranno le giornate? Di solito il meccanismo è un po' questo: gli spettacoli cominciano dalle 17 e durano fino a mezzanotte, poi già dalle 11 di sera insomma comincia il dopo festival, va avanti fino alle 2 di notte in uno spazio che si chiama il Bengodi, che è un luogo per mangiare, per bere, per ascoltare musica, e quindi diciamo che la parte spettacolare è questa. Però sia mattino che pomeriggio ci sono dei laboratori residenziali a cui ci si può iscrivere stando per alcuni giorni a Sansepolcro, anche esperienze più brevi di mezza giornata, e però ci sono anche tanti incontri e quindi insomma c'è un modo anche di vivere il festival se proprio uno non ne ha abbastanza di 6 ore di spettacolo anche fin dalla mattina. Com'è stata la scelta artistica? Un pezzo del nostro cartellone lo scelgono 46 quest'anno spettatori che si chiamano I Visionari. Sono cittadini di Sansepolcro, persone che vanno da 16 a 82 anni, che hanno lavorato per 8 mesi a scegliere fra 445 video 9 spettacoli da invitare al festival. Ovviamente è una piccola parte dei 45 spettacoli in programma, però è una parte significativa, un po' come rifacendosi a quell'immagine di Camus, è il nostro cuore caldo, la nostra estate in qualche modo, perché chiaramente rende il nostro progetto un progetto condiviso e anche popolare. Dopodiché il resto degli spettacoli li scegliamo Lucia Franchi ed io, sono anche tanti lavori internazionali, ci sono 18 progetti che vengono un po' da tutta Europa, ma non solo, anche dal Canada, dall'Australia, e ci sono anche tanti esiti di progetti di rete di cui la nostra associazione Capotrave Kilowatt è parte, quindi reti sulla danza urbana, reti sulla drammaturgia, per cui il festival dà un po' testimonianza di tanti linguaggi. Se dovessi dire una caratteristica di Kilowatt è che è davvero un festival eclettico dove ogni tipo di spettatore può trovare cose per il proprio gusto. Quali sono gli elementi di trasformazione, di cambiamento rispetto al percorso storico? Diciamo che il festival io lo racconto sempre come un processo delle formiche, nel senso che se io guardo l'impostazione che avevamo 22 anni fa, nel 2003, quando il festival è iniziato, a oggi non è che è cambiato, noi siamo sempre stati un festival multidisciplinare con una forte attenzione sulla danza e la musica è arrivata a un certo punto, non c'era proprio dall'inizio, però insomma c'è sempre stata, ci ha accompagnato l'attenzione alla scena indipendente, ai linguaggi di innovazione, magari negli ultimi anni si è aggiunto un po' questa passione che ci è presa per il teatro digitale, quindi anche l'attenzione a questa dimensione ibrida fra online e dal vivo, però ecco, li vedo come un processo di crescita costante che più che altro ha trasformato il contesto, nel senso che all'inizio questo progetto, come spesso le cose che riguardano i linguaggi del contemporaneo, veniva visto sul territorio anche di Sansepolcro con una certa diffidenza, se non proprio ostracizzato. E adesso invece davvero il festival è diventato un festival città, dove questo centro festival a cui facevo riferimento, il Bengodi, è costruito dalle associazioni dei commercianti, ci sono 19 spazi della città utilizzati, ci sono almeno 15 associazioni con cui collaboriamo, quindi una dinamica trasformativa che il festival sicuramente ha messo in campo. I riferimenti web per i dettagli del programma? Kilowatt Festival con la K, la W e 2T, kilowattfestival.it. 23esima edizione di Kilowatt Festival dal titolo Un'invincibile estate a Sansepolcro dall'11 al 19 luglio 2025. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore artistico Luca Ricci. Alla prossima! Grazie a te, a presto! Con Simona Cives, curatrice del programma della 24esima edizione di Letterature Festival a Roma, Stadio Palatino, dall'8 al 19 luglio 2025. Ben trovata. Buongiorno, ben trovati. Vediamo cos'è. Una manifestazione che si svolge ogni anno a Roma, è una delle più importanti manifestazioni dell'estate romana, si svolge allo Stadio Palatino all'interno della magnifica cornice del Parco Archeologico del Colosseo ed è un festival che mette insieme tante autrici e autori internazionali che vengono chiamati a leggere un testo inedito a partire da un tema che ogni anno è diverso. Quest'anno il tema è Ritorni, si tratta di un filo rosso che percorre tutta la letteratura, a partire dall'Odissea, che in qualche modo è un modello archetipico del tema del ritorno, e a partire da questo tema così importante e così pervasivo all'interno della nostra letteratura, le autrici e gli autori ospiti vengono chiamati a scrivere un testo inedito. La bellezza di questa lettura è che loro leggono nella loro lingua, quindi è una bellissima lettura dal vivo, e alle loro spalle su uno schermo scorre la traduzione del testo. Come nasce l'opzione Ritorni? Il tema del ritorno è un tema importante che percorre tutta la nostra letteratura. Ho poc'anzi citato l'Odissea di Omero, il grande poema omerico, ma in realtà se vogliamo risalire ancora indietro c'è anche la saga di Gilgamesh. E poi in tutta la produzione letteraria, in particolare in quella occidentale, sono tanti gli autori che riprendono questo tema. Mi viene in mente ad esempio la poesia Itaca di Cavafis, tanto bella, tanto nota. Però il tema del ritorno ci è piaciuto anche perché il termine ha una forte ambivalenza. Si parla di ritorni in letteratura, ma questo tema può essere letto in chiave molto attuale. Pensiamo a tutti i ritorni negativi di questo nostro tempo, il ritorno alle guerre soprattutto, ai nazionalismi, alle chiusure, a tutta una serie di atteggiamenti negativi che mettono a repentaglio i nostri sistemi democratici. Ecco, e proprio a partire da questo tema, le autrici e gli autori ospiti quest'anno ci hanno regalato dei testi bellissimi che vengono apprezzati tantissimo dal nostro pubblico. La scelta di questi nomi? Quanto mai varia, innanzitutto risponde ai gusti della curatrice artistica, alle proposte degli editori, degli agenti, spesso sono anche le traduttrici, i traduttori che fanno un lavoro di scouting, che ci suggeriscono delle figure interessanti. L'idea è quella di accontentare un po' tutti i gusti e quindi inserire nel programma autori molto popolari, ma anche contemporaneamente di fare un po' di ricerca. Ci sono molti italiani quest'anno nel programma, a partire da Mariangela Gualtieri, Paolo Nori, Nicoletta Verna, Viviane Lamarck, Nadia Terranova, Elvira Muicic e poi tante presenze internazionali di rilievo, pensiamo all'ungherese Laszlo Krasznahorkai, l'olandese Ilya Pfeiffer, il bulgaro Gospodinov, dal Cile la Batut. Abbiamo una scrittrice giapponese, vincitrice nel suo paese di moltissimi premi, una scrittrice molto interessante che si chiama Murata Sayaka. Poi la grandissima Azar Nafisi, scrittrice nata in Iran e trapiantata negli Stati Uniti, e Skolnevo e molti altri. Sono 6 serate allo Stadio Palatino e poi ci sarà un seguito, un'ultima serata all'Idroscalo di Ostia all'interno della manifestazione Punta Sacra, e lì ci sarà Nicola La Gioia che terrà un monologo sul tema della letteratura orale, sul tema del ritorno, e naturalmente proprio perché siamo all'Idroscalo di Ostia ed è vicino all'anniversario della morte ci sarà un omaggio a Pasolini. Come si svolge una serata? È un insieme di parole e musica. Quest'anno le letture degli autori saranno accompagnate dalle musiche dei Mocadelic, è un gruppo musicale noto ad esempio per la colonna sonora di Gomorra, la serie, e tra un intervento musicale e l'altro gli autori saliranno sul palco e faranno le loro letture. In molte di queste serate ci saranno anche delle introduzioni poetiche. La serata dell'8 luglio ad esempio è stata aperta da la poeta Mariangela Gualtieri, che ha letto una serie di componimenti sul tema del ritorno. Tommaso Ragno ha letto proprio i primi 300 versi dell'Odissea nella nuova traduzione di Guido Paduano. È stato bello perché abbiamo rievocato il tema del ritorno in tutta la sua pienezza. La serata conclusiva sarà chiusa dalla poeta Viviane Lamarck, che leggerà i suoi testi e renderà un omaggio a Pasolini proprio nella serata di chiusura del festival. I riferimenti web per il programma? La pagina Culture Roma di Roma Capitale e poi naturalmente le pagine Facebook del Festival Letterature e la pagina Cultura Roma. Tutte le serate saranno trasmesse in streaming su Facebook ma anche sul canale YouTube. 24esima edizione di Letterature e Festival dal titolo Ritorni a Roma allo Stadio Palatino dall'8 al 19 luglio 2025. Un saluto e un ringraziamento alla curatrice del programma Simona Cives. Grazie a voi, alla prossima. Con Annalisa Inzana, curatrice della nona edizione della mostra d'arte contemporanea collettiva Traperetana dal titolo Iperfamiglie a Pereto dal 12 luglio al 17 agosto 2025. Ben trovata. Grazie Federico, ben trovato a te. Spieghiamo cos'è Traperetana. La Straperetana è una manifestazione che ha fondato Paola Capata con Delfo Durante nel 2017 ed è una mostra d'arte contemporanea diffusa in un paesino millenario alle porte dell'Abruzzo, a 40 minuti da Roma, è il primo paese abruzzese, infatti è chiamato anche la Porta d'Abruzzo. È un'esperienza che nel tempo ha portato in questo paesino minuscolo, abitato da 600 persone, più di 150 artisti internazionali e oltre 3.000 persone, creando un circuito virtuoso che ha lasciato anche sul territorio dei lavori permanenti. Anche quest'anno, per il terzo anno di seguito, io e Paola abbiamo collaborato insieme. Quest'anno lei mi ha chiesto di curare la mostra e abbiamo scelto un tema decisamente denso, perché ci interrogavamo da un po' su che tema affrontare. Quello della famiglia, per motivi anche personali miei e di Paola, ci è venuto spontaneo. Avevamo già in mente alcuni artisti che volevamo coinvolgere, ne abbiamo costruito un dialogo meraviglioso, perché alla fine la mostra è uno splendido dialogo tra 15 artisti e artiste di qualsiasi età, di qualsiasi estrazione, di diversi percorsi e con opere molto diverse tra loro, che però sono in grado di declinare in modo poetico, in modo profondo, in modo anche disturbante la parola famiglia. che è una parola che, se uno va a vedere la definizione della parola sul dizionario Treccani, gli viene un colpo, nel senso che è una parola super densa, super stratificata, che parte da un concetto molto largo, che è quello di famiglia. L'origine latina della parola indicava le persone che vivevano tutte sotto la stessa casa, a prescindere dai loro legami di sangue, ma che poi è una parola che ha a che fare con la natura, che ha a che fare con la matematica, che ha a che fare con l'idea di serie, di serialità, di insiemi, che poi alla fine. E quindi le opere degli artisti che abbiamo coinvolto, che sono Gaia Lari, Diana Anselmo, Stefano Arienti, Tommaso De Luca, Odonkhimeng Davadori, una artista dalla Mongolia, Alessandra D'Inizio, Claudia Ferri, Sabrina Iezzi, Ketty La Rocca, Antonio Leone, Marzia Migliora, MP5, Giovanni Ozzola, Alberto Podio e Vedova Mazzei, riescono a darci una fotografia dettagliata e profonda di questo tema così denso. Com'è stata la scelta? Attraverso i lavori. Noi abbiamo ragionato su opere che in qualche modo dessero delle indicazioni, che leggessero una parte di questo prisma che è questa parola così complessa. Per quello poi alla fine il suffisso iper, che è un po' il nostro vezzo, ci piaceva usare i suffissi eclatanti come l'anno scorso supernaturale, quest'anno iperfamiglie era anche un po' un vezzo, però mai il titolo fu tanto veritiero, perché appunto le sfaccettature sono tantissime e abbiamo opere che parlano di comunità sorde che in qualche modo vengono vissute come diverse, come comunità da correggere per essere reintegrate. Abbiamo serie di opere che costituiscono delle famiglie all'interno delle produzioni degli artisti, ossia lavori che ritornano anche nel corso di 20 anni, che vengono affrontati dagli artisti con una certa ripetitività all'interno della loro produzione. Abbiamo opere che parlano delle comunità queer, dell'amore omosessuale, ci sono opere che parlano della violenza in famiglia, c'è un lavoro bellissimo di Marzia Migliora che parla proprio di violenza sulle donne, che si chiama Canto Libero, che lei ha realizzato nel 2019 con l'Associazione del Telefono Rosa di Torino. Ci sono quadrerie, come quelle di Vedova Mazzei, che richiamano quadrerie ottocentesche, hai presente quei grandi corridoi di Palazzo Pitti dove ci sono tantissimi ritratti delle famiglie. È della stessa idea, soltanto che i personaggi sono scrittori, intellettuali, artisti che in qualche modo sono importanti per loro e quindi vanno a costruire una famiglia di riferimento intellettuale che è simile alle famiglie di riferimento intellettuale che abbiamo tutti noi, i nostri scrittori preferiti, poeti che in qualche modo ci hanno accompagnato tutta la vita. E poi abbiamo opere che ci parlano di linguaggio, ci parlano del tentativo di innescare una relazione con l'altro, che poi innoce il significato più vero del costruire una famiglia. Abbiamo fotografie subacquee che ritraggono banchi di pesce, questi insiemi meravigliosi, coordinati, che sembrano delle nuvole geometriche e che in un modo quasi tautologico ci restituiscono l'idea di insieme, l'idea di famiglia nel senso biologico del termine. Oppure abbiamo una galleria di ritratti in cui i protagonisti sono tutti animali, sono tutti cani, e quindi un artista che è Antonio Leone che ha scelto di raffigurare gli uomini travestiti da animali, perché spesso travestire la realtà è il modo più semplice per parlare dei nostri sentimenti più intimi e più profondi. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, ma il dialogo non è assolutamente cacofonico, anzi, ne viene fuori una sinfonia molto ben orchestrata che ci restituisce la densità di questa parola. Come è stato pensato l'allestimento? L'allestimento è sempre un percorso a ostacoli e di questo è maestra Paola Capata. Paola allestisce la mostra in due palazzi storici. In uno, che è Palazzo Maccafani, c'è anche la sede a Pereto della sua galleria ed è un palazzo storico che ha anche una sala con i soffitti affrescati, che però è abituato a ospitare opere d'arte, per cui l'allestimento è stato naturale. Tra l'altro molti artisti hanno voluto venire a vedere i palazzi per installare i loro lavori, per esempio Stefano Arienti ha voluto allestire personalmente, dormendo a Pereto, i suoi lavori. Lui ci ha veramente fatto un regalo meraviglioso perché ha prestato addirittura delle opere che sono di sua proprietà e sono delle opere che ritraggono tutte coppie gay, che lui ha realizzato all'inizio degli anni 2000 e che era tantissimo tempo che non venivano esposte tutte insieme. L'allestimento invece di una stanza particolare, che è quella degli affreschi, che quindi è molto delicata, non si possono toccare i muri ed è sempre molto sfidante per l'allestimento delle opere, è stata risolta con una soluzione veramente bella e divertente che mescola insieme la quadreria dei Vedova Mazzei con queste casette di scultore realizzate da Tommaso De Luca. Una delle cose più belle fatte quest'anno è sicuramente l'allestimento all'interno della cisterna. Questo palazzo ha una cisterna sotterranea in cui Gaia Alari, che è un'animatrice video, ha realizzato un video appositamente per la manifestazione, che è un inno alla capacità della nostra immaginazione di generare, di prolificare sempre nuove immagini. E quindi in un ambiente molto scuro si vedono queste fantasmagorie di natura che diventano persone, poi diventano girotondi e poi diventano draghi e poi diventano piante. È veramente molto molto suggestivo. Nell'altro palazzo che ospita la mostra, che è Palazzo Iannucci, che è la vecchia casa del prete, del vescovo del paese, l'allestimento è divertente perché va a insistere in un ambiente che ha tutti i tratti dell'ambiente domestico, per cui c'è una cucina in cui sono stati montati gli acquerelli di un document da Van Dori, l'artista della Mongolia, c'è una stanza che era probabilmente lo studio del vescovo in cui c'è ancora un inginocchiatoio, ci sono le foto private di questo prelato alle pareti su cui è stata allestita una delle tre foto Claudia Ferri, che è una giovane fotografa che lavora con gruppi di ragazze nel loro passaggio dall'infanzia all'adolescenza. Oppure c'è una stanza dove quest'anno abbiamo trovato un letto, e siccome c'era il letto, questa meravigliosa artista che è MP5, è un'artista conosciuta soprattutto per le sue operazioni di street art, ha pensato un'opera che è stata vestita sdraiata sul letto e che si chiama Home. Anche in esterno il paese presenta dei lavori, perché nel percorso che unisce Palazzo Maccafani a Palazzo Iannucci il pubblico può vedere due fotografie, un metro per 1,50 m, di Claudia Ferri, che è ispirata ai dipinti mastodontici di Michetti, che era un pittore molto famoso di Pescara dell'Ottocento, ha realizzato questi due gruppi di ragazze che ti osservano quando passi, che lei ha chiamato le osservatrici, appunto, un lavoro sullo sguardo innocente, lo sguardo dei bambini, dei ragazzi, sulle persone, e le fotografie subacquee di Alberto Podio, che sono state allestite in due plance pubblicitarie che sono in due piazze diverse del paese. I riferimenti web per saperne di più? Traperetana su Instagram, c'è anche un indirizzo di posta a cui si può scrivere per prenotare una visita, che è info@traperetana.org. La mostra è aperta dalle 16 alle 20 il sabato e la domenica. Nona edizione della mostra d'arte contemporanea collettiva Straperetana dal titolo Iperfamiglia, Pereto dal 12 luglio al 17 agosto 2025. Un saluto e un ringraziamento alla curatrice Annalisa Inzana. Alla prossima! Grazie a voi, a presto, grazie. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.